4. Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Con circa 2 miliardi di euro di acquisti previsti per il 2017, l'e-commerce è un fenomeno in espansione in tutto il mondo. Anche l'Italia si è ormai inserita in questo trend. Basti pensare che quest'anno il valore degli acquisti è salito del 17% rispetto al 2016. Venditori e operatori logistici sono chiamati così ad affrontare una serie di mutamenti legati al cambio di comportamento dei consumatori e alla velocità delle consegne, con ripercussioni su tutto il processo, soprattutto in momenti particolarmente intensi come il Black Friday e il Cyber Monday. Ed è proprio in occasione di questi appuntamenti che i lavoratori del centro di distribuzione di Amazon in provincia di Piacenza hanno scioperato, richiamando l'attenzione dei media e degli operatori del settore. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E noi ci occuperemo oggi di un segmento importantissimo di questo mondo, un segmento che sta acquistando sempre più forza all'interno del mondo della logistica, che è quello legato all'e-commerce. Da qualche giorno è passato, per fortuna direbbe qualcuno, il periodo del Black Friday, cioè questo periodo di spese folli in cui ci sono prodotti in saldo. Chi è abituato a fare acquisti sui canali digitali, in internet, con il cosiddetto e-commerce, sa bene di che cosa stiamo parlando, così come lo sanno bene gli operatori che si trovano ad operare in questo mercato. E noi oggi parleremo con uno dei principali operatori, perché parleremo di Amazon. Lo faremo in compagnia di Elena Cottini, che è responsabile comunicazione di Amazon Italia. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Grazie, buon pomeriggio a voi. Allora, innanzitutto, passati da qualche giorno questi appuntamenti del Black Friday, del Cyber Monday, cioè di tutto questo colorito mondo degli affari online che ci arriva da oltreoceano, un bilancio di come è andata, poi ovviamente analizzeremo con calma i numeri nei prossimi giorni. Certo, allora la giornata del Black Friday in Italia è andata particolarmente bene, abbiamo avuto oltre 2 milioni di unità ordinate su Amazon.it nell'arco della giornata, quindi circa 1 milione in più rispetto all'anno scorso, dove ci eravamo assestati su 1.200.000. Voi siete stati, come dire, anche colpiti, tra virgolette, proprio in questi giorni, nei giorni del Black Friday, da uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali, che lamentano delle condizioni difficili di lavoro all'interno delle strutture che si occupano di e-commerce. Tra poco ne parleremo anche con il responsabile del Dipartimento Trasporto Merci di Filt CGIL, Giulia Guida. Però prima volevo chiederle quali sono le particolarità sul fronte della logistica che si trovano ad affrontare le aziende che si occupano di e-commerce come la vostra. Quello che rende peculiare un centro di distribuzione di Amazon è la tecnologia che è possibile vedere all'opera insieme ai nostri colleghi che ogni giorno sono impegnati al lavoro. Il magazzino di Castel San Giovanni impiega 1600 persone e i processi principali che possiamo vedere all'interno di un magazzino sono paragonabili a quelli degli altri magazzini della logistica, quindi abbiamo 4 processi. Il primo è il ricevimento della merce, abbiamo poi lo stoccaggio della merce, il prelevamento, al fine poi l'impacchettamento e la spedizione. Ecco, però voi vi trovate anche ad affrontare dei picchi, come quelli ad esempio legati al Black Friday, di attività, per cui credo ci sia bisogno anche di un'estrema flessibilità del lavoro. Ma allora, innanzitutto noi lavoriamo sempre su 3 turni e 7 giorni su 7 e abbiamo progettato i nostri schemi di turnazione in modo da assicurare una programmazione adeguata per i nostri dipendenti e allo stesso tempo soddisfare le aspettative dei clienti. Nei casi di picchi lavorativi che sono preventivabili anticipatamente, il Black Friday è un esempio, ma il Prime Day può essere un altro, lo straordinario viene richiesto con 3-4 settimane di anticipo in modo da poter dare ai dipendenti la possibilità di di organizzare al meglio il proprio tempo. Giulia Guida, segretaria nazionale del Dipartimento Trasporto Merci di Filt CGL. Faccio anche a lei la stessa domanda. Voi vi occupate di trasporto merci a 360 gradi, ovviamente la logistica legata all'e-commerce è una logistica particolare. Quali sono le criticità che voi avete denunciato in occasione di questo fermo? Devo dire che, giusto per precisazione rispetto al tema e quindi all'azione di sciopero messa in campo sull'impianto di Piacenza, quell'impianto non ha coinvolto la nostra categoria, seppur ovviamente abbiamo portato solidarietà a quei lavoratori, perché ricordo che su quell'impianto, come sui dipendenti diretti di Amazon, si applica il contratto del commercio. Però è chiaro ed evidente che proprio per le attività messe in campo e quindi sul pezzo della distribuzione urbana delle merci, l'attività viene svolta da tutto il mondo della logistica e quindi Corriere Espresso, che svolgono e quindi consegnano la merce per conto ovviamente di Amazon. Viene chiesta sempre maggiore innovazione tecnologica, sempre maggiori tempi e quindi rapidità di consegne, ed è chiaro che al centro il cuore è diventato il core business delle attività della logistica, però c'è il grande tema delle condizioni di lavoro con cui si svolgono le attività di logistica. C'è un primo punto. Intanto, la consegna delle merci, noi sappiamo benissimo che nel nostro paese è stata costruita su un modello produttivo fatto di appalti, spesso e volentieri su una catena di subappalti, dove il costo del lavoro e le condizioni del lavoro sono state purtroppo schiacciate. Ed è chiaro ed evidente che la battaglia che noi abbiamo fatto in questi anni, a partire proprio dal rinnovo del contratto, e non solo con il rinnovo del contratto, ma anche attraverso accordi di secondo livello con tutte le aziende che operano all'interno del settore e che lavorano proprio anche per conto proprio di Amazon, è stato quello di intervenire nei processi attraverso la contrattazione, quindi per migliorare sia le condizioni ma soprattutto per far emergere ovviamente le grandi distorsioni. Io ecco, tra le altre cose, chiedo scusa Guida, visto che ne sta parlando, proprio in questi giorni, qualche giorno fa, ci sono stati anche degli incontri per il rinnovo del contratto di lavoro, poi le chiederei anche come sta andando questa trattativa, sì, che credo che sia assolutamente legata. Diciamo uno stop per provare a rinnovare il contratto che, come sapete benissimo, coinvolge tantissimi lavoratori, ma soprattutto il grande e l'intero mondo della distribuzione urbana, dove veramente abbiamo portato al centro proprio il tema degli appalti e dell'evoluzione della distribuzione urbana. Però proprio per fare riferimento e rilanciare proprio il tema della contrattazione, che credo che sia l'unico strumento e credo che sia stato proprio il cuore anche del, probabilmente dalle note che noi leggiamo, dello sciopero messo in campo dall'altra categoria, è quello che solo e esclusivamente attraverso la contrattazione. Noi conveniamo che un provider come Amazon, bene che investe in Italia, e sosteniamo sicuramente tutte le operazioni di investimento che sta facendo nei vari territori, però è chiaro che la contrattazione e delineare bene quelli che sono i perimetri contrattuali, il giusto contratto di riferimento, attenzione, io lo dico rispetto al contenuto del lavoro che si fa, e il core business di queste aziende sono sicuramente la consegna delle merci, la distribuzione delle merci e l'intera movimentazione. Certo. E più non a caso, a proposito del core business che è legato al mondo del trasporto, Amazon ha già lanciato in diversi paesi negli Stati Uniti un nuovo servizio che ha in qualche modo internalizzato il trasporto, laddove invece il processo di questi ultimi anni è stato sempre quello di terziarizzare, quindi è ovvio che sta ritornando in Amazon anche all'interno delle sue attività anche il tema del trasporto e della logistica. Non sappiamo quando questo succederà anche in Italia, ma ovviamente staremo molto attenti anche a questo sviluppo. Elena Cottini, io volevo fare un'ultima battuta con lei a proposito invece del Natale. Black Friday abbiamo visto è andato abbastanza bene, avete raddoppiato le cifre dell'anno scorso, cosa vi aspettate per Natale? Speriamo di mantenere le stesse aspettative. Diciamo che un paio di anni fa abbiamo lanciato il Black Friday anche in Italia, e mentre fino a 3 anni prima il nostro picco di Natale cadeva più a ridosso del 25 di dicembre, più o meno era intorno al 13-15 dicembre, negli ultimi 2 anni è stato anticipato, quindi ha coinciso con il Black Friday. Detto questo, continuiamo appunto a lavorare, a essere appunto concentrati nel mantenere la promessa di consegna ai nostri clienti anche per il Natale di quest'anno. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. La nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.